tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, tanto tuonò che piove, è arrivata la prima ondata di deferimenti che riguarda sia società, riguardano sia società di Serie A e B che 61 tesserati, tra i quali 52 calciatori in attività, leggo da un'agenzia arrivata da poco, 2 calciatori non attività, 4 dirigenti o collaboratori di società e 3 iscritti all'albo dei tecnici. Vabbè, quello che contano sono i nomi e, scorrendoli, diciamo che nomi di primissimo piano, tolto Cristiano Doni, di cui però qualcosina mi pare si sapesse da tempo, non ce ne sono. Mi sembra più significativi i riferimenti per le società, perché ci sono 3 squadre di Serie A quest'anno, nel frattempo una già retrocessa, cioè il Novara, che sono state per l'appunto deferite in questa inchiesta relativa alla parte dell'inchiesta giudiziaria della Procura di Cremona. Questi 3 club, che sono Atalanta, Novara e Siena, sono stati deferiti per responsabilità oggettiva. Ce ne sono 2 di vertice anche in Serie B, di club deferiti sempre con lo stesso capo di imputazione, cioè la responsabilità oggettiva, e si tratta di Pescara e Sampdoria. Quindi, così come nella prima tranche Atalanta, Novara e Siena, questi deferimenti potrebbero cambiare qualcosa nella classifica di Serie A, direi di coda, no? Considerando appunto la caratura delle squadre. Pescara e Sampdoria invece vorrebbe dire coinvolgere la testa della classifica della Serie B. In ogni caso, tutti i club deferiti sono 22 e sono Albinoleffe, Ancona, Ascoli, Atalanta, Avesa, che è una società minore, Cremonese, Empoli, Frosinone, Grosseto, Livorno, Modena, Monza, Novara, Padova, Pescara, Piacenza, Ravenna, Regina, Rimini, Sampdoria, Siena e Spazio. 22 club. La bellezza di 22 club, ripeto, dalla prima tranche dell'inchiesta sul calcio scommesse, quella relativa a Cremona, si aspettano ora le risultanze da Bari e da Napoli. Noi stiamo aspettando Marco Bellinazzo, che, come sapete, è il nostro esperto di questioni non solo economico-finanziarie ma anche giuridiche applicate al calcio, e dunque questo è un giorno in cui il suo intervento è prezioso per ricostruire, per chiarire, ma soprattutto per proiettare questi deferimenti in termini poi di punizioni, in termini di, non dico di sentenze, ma di richieste perlomeno da parte del pubblico ministero, che sarà il procuratore federale Palazzi. Facciamo un po' di arte varia nel frattempo. Beh, intanto stasera c'è un gran bel derby spagnolo tra i 2 Athletic, quello di Bilbao e quello di Madrid, che si giocano la finale di Europa League a Bucarest, e sarà certamente una gran partita, non c'è dubbio, ma si comincia a vivere anche la vigilia dell'ultima giornata di campionato con i residui verdetti che deve dare. E allora, visto che in pole position per il terzo posto, che vale la qualificazione all'Europa che conta, c'è l'Udinese, sentiamo Guidolin. Niente è fatto, tutto è ancora da conquistare, quindi noi dobbiamo solo pensare a prepararci bene, essere pronti di testa, di gambe e di cuore, e basta, tutto qui, non possiamo fare altro, e dobbiamo proprio fare così, stare calmi e stinkelmuth, che la strada è ancora lunga. Tinkerboots, stiamo calmi e parliamo evidentemente in friulano. Oh, ci sono evidentemente le squadre che invece sperano e come che l'Udinese a Catania non faccia risultato. Ricordo che un pareggio all'Udinese è sufficiente per qualificarsi in Champions, non è necessaria la vittoria, ma quel pareggio va pur sempre ottenuto contro una squadra che ha fatto uno strepitoso campionato come il Catania. E allora di questa speranza che ancora coinvolge almeno 3 squadre, anzi 3 squadre, che sono Lazio, Inter e Napoli, della speranza appunto che il Catania se la giochi fino in fondo, si fa interprete Mazzardi. Come ho sempre detto, sugli altri non possiamo contarci. Io credo che il Catania ci pensa da sé a dover fare quello che stanno facendo tutti. Ha fatto il Bologna, ha fatto una partita demente, importante, non ha pensato a niente, è giusto che sia così. Noi ci crediamo, perché noi abbiamo solo una strada, poter battere il Siena. Questo lo faremo con tutte le nostre forze, poi vedremo cosa succederà dall'altra parte. E questo era Mazzarri, ripeto, a nome anche dei suoi 2 colleghi allenatori di Inter e Lazio. Ultima giornata che si giocherà in maniera frazionata con partite al pomeriggio, partite verso mezzasera e partite in notturna. Questa è la risposta, la via italiana all'unità di, non di luogo ma di tempo, che in Italia è sempre stata rispettata per le ultime giornate. Poi lentamente questo numero di giornate, che erano 4, si è ridotto. Adesso liberi tutti e si gioca per fasce di interesse, ma almeno è rispettato il principio che chi va in campo per uno stesso obiettivo, che sia scudetto non più, ma che sia terzo posto, che sia retrocessione, almeno gioca alla stessa ora, a differenza di quanto è accaduto nel penultimo turno e di cui si è giustamente molto lamentato il Lecce. Il presidente di Lega, Beretta, a proposito di calendario. Abbiamo, diciamo, organizzato, io credo, al meglio l'ultima giornata, salvaguardando il principio, diciamo, della contemporaneità laddove serve per, diciamo, la cosiddetta regolarità del campionato, e laddove non serve abbiamo modulato un'offerta che va incontro agli interessi, diciamo, delle televisioni e evidentemente dei tifosi e dei telespettatori. È arrivata un'intervista all'Argentina sullo scudetto della Juventus ed è di una vecchia conoscenza della Juventus come Camoranesi. C'è poco da dire, una squadra che arriva fino all'ultima giornata imbattuta, c'è poco da dire, penso che sia stata una stagione sognata, no? E quindi spero per loro, e sicuramente sarà così, sarà una festa. Niente, un abbraccio grande a tutti, mi sembra che sia giusto mettere la terza stella, per quelli che sono juventini la sentono così, quindi... Poi le regole sono altre, e sicuramente quei due scudetti tolti non verranno mai restituiti, però per i juventini penso che siano 3 stelle, su questo non ci piove. Scommesse, scrive Emilio da Riva del Garda, questa è l'occasione per riportare la Serie A 16 squadre e la B a 18, non penalizzazioni ma direttamente sfoltimento. Beh, è una tesi, Emilio, però... è un po' ardita, nel senso che non credo possa essere applicata immediatamente. Che significa deferimento? Domanda Fabio. E scusi l'ignoranza, nessuna ignoranza, Fabio. Noi, purtroppo si è dovuto in questi anni familiarizzare a forza, ma tanti anni, intendiamoci, non certamente soltanto questi ultimi, familiarizzare con termini come questi che... insomma, sono un po' meno gradevoli e pertinenti, no? al calcio rispetto a fuorigioco, piuttosto che pressing, piuttosto che altre terminologie da campo. E invece deferimento, mo glielo spiega Marco Bellinazzo. Buongiorno Marco. Ciao Gigi, buongiorno. Grazie, benvenuto al capezzale di A Tempo di Sport in occasioni come queste. Allora, innanzitutto, che significa deferimento e che conseguenze comporta? Per fare un parallelo con il processo penale, il deferimento equivale a un rinvio a giudizio. Significa che l'organo inquirente, quello che fa le indagini, ha concluso le indagini e ha ritenuto che determinati soggetti probabilmente hanno commesso un illecito o un reato in ambito penale, e a quel punto come dire, deferisce, rinvia a giudizio, quindi chiede a quello che è il tribunale di accertare o meno se questo illecito è stato effettivamente commesso, e quindi in sostanza chiede di verificare se quel quadro accusatorio che è stato messo insieme dalla Procura federale sulla base anche degli atti, in questo caso della Procura di Cremona, regge al vaglio della giustizia sportiva, e da qui poi si arriverà eventualmente alle penalizzazioni o meno, a seconda che il quadro accusatorio regga o meno. Certo, ricordo che all'800240024 potete intervenire in diretta per porre questioni, in particolare direi oggi su questo argomento. Roberto scrive: certo che questi deferimenti potevano essere resi pubblici a fine campionato, immagino con che stato d'animo giocherà il Siena, fa questo esempio del Siena, credo che valga abbastanza per tutti, ma è vero anche che non possiamo ricominciare a giocare con la giustizia orologeria, no? Perché semmai... sono arrivati tardi forse questi riferimenti, non presto. Probabilmente, tra l'altro non sono gli unici, nel senso che si sta... Ecco, facciamo questi capitoli, facciamo un po' questa scansione, questa è la prima nel ondata. Senso, questa è l'ondata relativa agli atti inviati dalla Procura di Cremona, che ha iniziato a indagare lo scorso giugno, l'anno scorso appunto, ha raccolto una serie di prove e le ha girate alla Procura Sportiva, la Procura Federale l'ha girata agli organi di giustizia sportiva e abbiamo avuto lo scorso anno una serie di condanne, di penalizzazioni. Certo. La Procura di Cremona però ha proseguito sulla scorta dei risultati già ottenuti e ha scoperto che le combine erano di più, perlomeno diciamo per quanto riguarda alcune squadre, ne ha scoperte di nuove, ha raccolto altri elementi e dunque la Procura di Cremona ha inviato ulteriori atti alla [S2] Certo. [S1] Procura federale e da qui è nata, diciamo, l'ondata di deferimenti di oggi. Ci sono però altre due procure che indagano su episodi di calcio scommesse, di presunte combine, in parte collegabili a quelle emerse a Cremona, in parte no, e mi riferisco alla procura di Bari, in particolare ha indagato su Bari Lecce, Masiello, Autorete, Derby, insomma quel filone, diciamo. Quel filone lì, mm-hmm. E c'è un ulteriore filone a Napoli, la procura di Napoli sta indagando, c'è un calciatore che all'epoca dei fatti militava appunto nel Napoli, era Giannello, era un portiere di riserva che risulta iscritto nel registro degli indagati e da quel filone potrebbero emergere quindi ulteriori elementi. E si sta aspettando da questo punto di vista la conclusione del campionato, anche la partita finale di Coppa Italia del 20 maggio per poter procedere eventualmente a ulteriori deferimenti. Il tutto si spera dovrà portare a una definizione delle responsabilità, mettiamola così, entro l'inizio del prossimo campionato, certo. Considerando però che ci sono anche gli europei di calcio e che tendenzialmente la FIGC ci vorrebbe evitare che si sovrapponessero le due cose, almeno dal punto di vista mediatico. Non solo, ma entro l'inizio del campionato due gradi di giudizio, non soltanto il primo con le prevedibili, possibili condanne, ma anche la sentenza. Il secondo grado, che di solito, Gigi, è abbastanza veloce, insomma, il secondo grado in questi casi interviene dopo un paio di settimane, quindi l'importante è che si concluda la prima tranche di accertamenti da parte degli organi di giustizia sportiva. Oh, ti farei ricordare intanto un tuo cavallo di battaglia, nel senso che lo hai ricordato spesso in questi appuntamenti e su questi argomenti, il concetto di pena afflittiva, perché ho la sensazione che le tifoserie la stiamo prendendo un pochino morbida. No, nel senso che c'è qualcuno che dice la mia squadra ha fatto tanti punti, va bene, quindi sarebbe salva, non so, per 5, 6, 8 punti, se per caso anche dovessero condannarla, ha questo gruzzolo che la preserva da, non mi risulta. Non è un patrimonio che si può spendere al negozio della giustizia sportiva. Però è interessante a ricordare, secondo assolutamente. Me. Assolutamente. Il concetto di pena nell'ambito dell'ordinamento sportivo è un po' diverso da quello dell'ordinamento ordinario, diciamo, della giustizia penale. La sanzione in ambito sportivo deve essere effettivamente tale, cioè afflittiva e penalizzante. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui determinate penalizzazioni, 3-4 punti, si prospettano come effettivamente dannose per la società ritenuta responsabile, per esempio possono farla retrocedere o farle perdere una qualificazione, mettiamo, a una competizione europea, allora è chiaro che la procura, diciamo, richiederà che siano applicate immediatamente. Sì. Se una squadra ha 10 punti sulla zona retrocessione, i punti di penalizzazione mettiamo sono 5, questi 5 punti non verranno applicati quest'anno perché non avrebbe afflizione, no? Cioè, la sanzione non sarebbe la punizione concreta, quindi vanno nella prossima stagione, quindi quella squadra partirebbe con un handicap di 4-5 punti, insomma, come è avvenuto per esempio per l'Atalanta in questo campionato. Seconda domanda, in attesa che te ne rivolgano direttamente gli ascoltatori che già ne hanno fatto richieste e si sono collegati. Seconda domanda è questa. Qui è arrivata un'ondata di 22 club e 61 tesserati e parliamo di Cremona. Che cosa ti aspetti in termini numerici? Non dico in termini di identikit, ma almeno in termini numerici dai filoni di Bari e di Napoli. Guarda, l'insieme delle varie parti di questa inchiesta generale sul calcio malato dovrebbero portare a numerosi punti di penalizzazione, in particolare in Serie B e Lega Pro Sulla Serie A ho qualche dubbio che diciamo la responsabilità di determinati club comporti forti penalizzazioni. Tutti i deferimenti attuali, e quindi immagino anche quelli futuri, sono per responsabilità oggettiva e non per responsabilità diretta. Cioè si riconosce che il club non ha partecipato attivamente con la combinazione. C'è un rischio forse su Siena, o sbaglio, da un punto di vista di indagine? Deve essere ascoltato il presidente Mezzaroma. C'è un rischio su Lecce, perché anche si è parlato di un possibile intermediario collegato alla presidenza Semeraro. Tutte cose che andranno verificate. Certo. Ecco, in quel caso, qualora fosse riconosciuta la responsabilità diretta, eventualmente parleremo di un'altra storia, cioè di una penalizzazione forte, di una retrocessione, e, insomma, di un altro quadro accusatorio. Se restiamo nell'ambito della responsabilità oggettiva, c'è adesso una serie di ci sono alcune attenuanti che permetterebbero alle squadre di cavarsela con qualche punto di penalizzazione. Se pensiamo al precedente dell'Atalanta, che è quello più importante, 6 punti di penalizzazione a fronte comunque di un coinvolgimento molto importante di alcuni tesserati, in particolare di Cristiano Doni, sono in qualche modo il benchmark, no? Il punto di riferimento. Certo. A scalare potrebbero aversi invece penalizzazioni per le altre squadre. Molto chiaro. Alberto da Rimini, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io sono appunto di Rimini e sono anche tifoso della Verità, no? E volevo dire, fra la squadra dei feriti c'era pure Rimini, che però tengo a precisare che nel frattempo è fallita, anche se non è fallita, è sceso in Serie B, poi adesso che stanno a fare la Lega Pro, seconda divisione, e ha cambiato società, e quindi vorrei sapere cosa rischia, perché insomma non è più quella società lì, non vedo per una squadra che retrocessa addirittura in Serie B debba rischiare qualcosa. Grazie, che succede in questo caso, Marco? Il titolo sportivo è quello, se c'è continuità di titolo sportivo c'è anche continuità di responsabilità oggettiva, quindi credo che non cambia nulla. Cambi poco, insomma. Se è rimasto quello il titolo sportivo. Sì, io ora nel dettaglio la vicenda come dire, giuridica o fallimentare del Rimini non la conosco bene, devo dire. Cioè, però il principio su cui si muove l'ordinamento sportivo è questo. È quello. Roberto Livorno, buongiorno. Roberto? Dica. Pronto? Dica. Dunque, io innanzitutto la ringrazio per l'ospitalità. Vabbè, ma... Dopodiché volevo intervenire per dire che le società che verranno penalizzate anche di pochi punti per responsabilità oggettiva o meno, ma ritengo che in tanti casi siano le penalizzate, perché i calciatori che vendono il risultato, quelli sono dei traditori, tradiscono la fede degli sportivi, tradiscono la società che li paga. Quindi in quel caso lì dovrebbero essere radiati loro, e le società, se ne risultano innocenti, non subire niente, perché sennò, come dice questo verbo, becchi e bastonati. Becchi e bastonati, dalle su parti si dice, sì, risposta rapida, tanto poi questo argomento tornerà anche più tardi dopo l'intervallo. Beh, di fatto è vero che in molti casi le società sono penalizzate, ma la responsabilità oggettiva è come dire, un principio che copre tutta questa fattispecie, per cui se uno è tesserato per una società e commesso un illecito ne risponde anche la società, perché si presume, e dico si presume, che la società avesse dovuto diciamo, vigilare sul comportamento del tesserato e in qualche modo prevenirlo. Non si è ancora trovato né in ambito italiano, né europeo, né mondiale un principio migliore, più credibile, diciamo pure, avevamo, alla responsabilità. Avevamo parlato, Gigi, della possibilità di applicare la disciplina del decreto legislativo 231, no? Quello sulla responsabilità amministrativa degli enti. Qualche giorno dopo questa trasmissione, Beretta, alla fine di una riunione, insomma, della Lega, ha chiarito che allo studio proprio questa ipotesi, siamo stati preveggenti in qualche modo. Bravo. E in quel caso, diciamo, la società, adottando determinate cautele, tipo creando dei comitati interni di controllo e dimostrando che quell'illecito commesso dal tesserato non ha procurato un vantaggio, potrebbe effettivamente evitare penalizzazioni, almeno sarebbe una via d'uscita. Certamente, tentativi che vanno esperiti, ma che bisogna vedere se verranno accettati, insomma, in tempo, per cosa che al momento non mi pare molto probabile. Avviso ai naviganti, noi cambiamo argomento, sempre ristampo economico-finanziario, ma non più giudiziario in questo caso. Secondo promessa precisa e calendario che ha già avuto due appuntamenti nelle scorse settimane, se a qualcuno di voi interessa continuare su questa vicenda, può farlo intervenendo. Allora, però prima di arrivare a questo argomento, Marco, ti leggo l'ultima mail arrivata, firmata Alessio Capone, quella trovata meravigliosa. Temo che ti intenerirà. Non voglio che legga in diretta questa mail, e io ovviamente lo faccio subito, ma se ha modo la faccia recapitare al destinatario. Senti qua, ciao Pocio e grazie. Ti abbiamo amato a sud come a nord, in Italia come all'estero, quando segnavi come quando sbagliavi. A noi non importava, solo fai in fretta ad andartene, così farà meno male. Vai via con stile, non rovinare tutto, grazie da sempre e per sempre. Fai fatica a riprenderti, capisco che quando l'emozione ti travolge poi sia difficile tornare alla parte. La parte è quella di raccontarci, dopo che nelle scorse settimane hai fatto l'identichi, insomma, hai fatto una foto economica finanziaria a Juventus Inter e Milan, e nella seconda puntata la scorsa settimana alle squadre invece di fascia medio alta, adesso ci resta il resto del gruppo da esaminare. Sì. Chi sta meglio? Sono andato appunto a spulciare i bilanci, soprattutto sì, per capire chi è che potrebbe fare magari il salto, certo, di qualità. Chi ne ha i presupposti economico? Gli ultimi bilanci. E devo dire che con sorpresa sono ben posizionate, ma questo farà piacere guardando all'insieme, no, del calcio italiano, come per esempio Palermo e Catania siano due squadre che hanno dei buoni fondamentali. Il Palermo, anche grazie poi all'affare Pastore, è riuscita, sì, l'anno scorso ad avere un fatturato che si avvicina ai 100 milioni di euro e ha chiuso in utile per quasi 8 milioni. Tra l'altro riuscendo, diciamo, a contenere gli stipendi intorno ai 36 milioni, quindi ben oltre quello che è auspicabile, cioè è auspicabile che il rapporto tra stipendi e fatturato sia intorno al 50%, in questo qui siamo sotto, siamo appunto intorno a 38-40, circa 38-40%, e se una squadra riesce a crescere con il fatturato, anche magari acquistando giocatori e valorizzandoli e rivendendoli, certo, e mantenere l'equilibrio con gli ingaggi, produce utili. Vediamo che è un esempio virtuoso. Così come un esempio virtuoso il Catania, che ha un fatturato più basso, intorno ai 50 milioni, ha contenuto gli stipendi intorno ai 20 milioni, quindi gli ingaggi, il costo del personale, e ha chiuso con l'ultimo bilancio con un utile di 6,4 milioni. Quindi, ampio, altro esempio virtuoso, e direi che a differenza del Palermo, non che il Palermo abbia fatto nulla che non va, insomma, diciamo che la stagione, a fronte di questi bilanci da applausi, poi il Catania, a differenza del Palermo, ha meritato applausi anche sul campo, perché ha giocato il signor calcio, ha fatto il miglior punteggio della sua storia in Serie A. E quindi, e tra l'altro, ti dirò, è dal 2007 che il Catania chiude i bilanci in attivo, producendo quindi utili per la proprietà, e realizzando evidentemente un bel progetto, come ha detto, anche sportivo. E quindi viva un applauso serio a Catania, perché dimostra, è un esempio virtuoso che dimostra come da anni a questa parte, non soltanto in un anno fortunato o casuale come può essere questo, come da anni si possano coniugare i bilanci in ordine, i conti in ordine e i risultati sul campo. Esattamente, salendo più sopra, andando sempre meglio. La penisola del pallone, un esempio positivo è anche il Parma, perché ha raggiunto un fatturato importante, insomma siamo sopra gli 80 milioni, con costi per il personale che sono circa la metà di questo fatturato, e ha chiuso in utile circa 1 milione l'ultimo bilancio. L'anno prima aveva perso 2,4 milioni, ma insomma sempre, la società, cioè, guidata da Ghirardi, mi sembra stia consolidando un certo patrimonio sia economico che sportivo, certo, e non a caso sta veleggiando verso i quartieri alti. Se avesse cominciato prima questo rally, probabilmente sarebbe in zona perlomeno Europa League. Ci sono altri esempi incoraggianti? Ci sono altri? Guarda, devo dire che ero molto interessato al bilancio di Fiorentina e Genoa, perché sono squadre che hanno un giro d'affari molto importante. La Fiorentina ovviamente un po' in caduta rispetto agli anni delle partecipazioni in zona Champions. L'ultimo bilancio è stato chiuso con un fatturato di 80 milioni, ingaggi che sono ben oltre i 50 milioni, quindi quel rapporto, come vedi qui, molto negativo. Diventa negativo, e non a caso è stata una perdita di circa 10 milioni nell'ultimo bilancio. Analogamente il Genova ha raggiunto un fatturato importante di circa 95 milioni, ma avendo oltre 50 milioni di spese legate agli ingaggi è arrivata a chiudere l'ultimo bilancio con una perdita di circa 17 milioni. E quindi siamo arrivati nelle squadre, invece, nelle società, anzi, che non funzionano un granché. Hai detto Genova, mi pare. Società che avrebbero, diciamo, una potenzialità, ma che in qualche modo la stanno sprecando via via. Certo. Farei un intervallo con un intervento dalla provincia di Mantova. Daniele, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. Dica. Ascolti, io vorrei approfittare 30 secondi per dirle una cosa. Io so che gioco forza ai media, e quindi conseguentemente anche voi date spazio, molto spazio, soprattutto alle società, alle squadre di prima fascia. Però vorrei, nell'ambito di questa questione del calcio scommesse, spendere due parole a favore della squadra per cui io tifo, e cioè la Cremonese. Io non so se voi avete seguito tutto l'iter che ha seguito la nostra squadra quest'anno, però sì, abbastanza, e siamo a 20 secondi però, Daniele, visto che mi ha chiesto 30. Va bene. Niente, io la mia speranza è che in questa seconda tranche la Cremonese non sia penalizzata, o comunque sia trattata alla stregua delle altre squadre, e non si usi la mano pesante, che non si usino due pesi e due misure come è stato fatto. Noi cremonesi siamo fermamente convinti che qualcuno abbia voluto farcela pagare per il fatto di aver scoperchiato il vaso di Pandora, perché ricordiamoci che volontariamente o non volontariamente, direttamente o indirettamente, noi dobbiamo dire grazie alla Cremonese, perché tutto questo è saltato fuori. Io la ringrazio dello spazio, mi scusi per lo sfogo. No, scusi lei, Daniele, dire grazie alla Cremonese per come è saltato fuori, Marco, mi sembra una tesi un po' ardita. Beh, diciamo che se guardiamo i fatti oggettivamente, ci dicono che gli episodi sono accaduti a Cremona, e che da Cremona è stato scoperchiato il vaso di Pandora. Certo. Sulla capacità poi che c'è stata da parte della società cremonese calcio di come dire, sollecitare tempestivamente gli organi di giustizia sportiva piuttosto che quelli della giustizia penale, diciamo che si può discutere, tant'è vero che sono arrivati 6 punti di penalità che poi hanno resistito in tutti i gradi di giudizio. Io però non dubiterei che ci sia una sorta di accanimento nei confronti della Cremonese. Questo vale credo per qualsiasi tifoseria. Noi prima abbiamo fatto, tu hai fatto una disamina oggettiva di tutto quello che può accadere. Se vuoi ti faccio vedere la maggioranza dei messaggi arrivati sul display, riguardano dichiarazioni di innocenza totale oppure di persecuzione, come questo che chiama, no, a nome della Cremonese. Perché poi tu puoi fare qualunque questione di principio, ma quando arrivi poi alla degenerazione, all'interpretazione tifoidea, è difficile uscirne. Sì, sicuramente. È chiaro che dispiace vedere la propria squadra penalizzata per comportamenti dei tesserati. Il principio della responsabilità oggettiva però ci dice questo. Probabilmente andrà modificato, certamente non in corsa come hanno proposto alcune società. Insomma, certo. Arriviamo ai processi, alle penalizzazioni, e dopo eventualmente discutiamo di come migliorare il sistema. Esattamente. Marco, stavi parlando, ci resta un minutino, ma poi possiamo avere un supplemento più tardi. Un minutino all'intervallo per fare qualche esempio meno virtuoso. Beh, per esempio il Siena ha raggiunto un fatturato di 30 milioni, ma ha un costo per salari di circa 26, quindi tutto il fatturato è stato assorbito nell'ultimo bilancio dagli ingaggi, tant'è vero che poi si è arrivati alla fine dell'anno a una perdita di circa 20 milioni che per una società come il Siena insomma sono tanti. Ci sono da parte del club tanti investimenti che sono stati realizzati, ci si augura che sia, come dire, un anno di transizione verso invece il pareggio di bilancio, insomma una zona certo, positiva dei ricavi. L'anniversario, e cioè il giorno 9 maggio, con Nicola Filippone. Credo che l'amico Marco Bellinazzo si divertirebbe molto di più con quello di domani, 10 maggio 87, perché qualcosa magari gli potrebbe suggerire sin d'ora. Però questo sarà domani. Per il momento oggi è il 9 e sentiamo che 9 maggio ha trovato Nicola Filippone. Sembra ieri. 9 maggio 1954. Nel giorno del suo esordio in Serie A, a Concetto Lobello, uno dei più autorevoli e carismatici arbitri di sempre, mancano 4 giorni per compiere 30 anni. Il direttore di gara siracusano è impegnato a Bergamo, dove l'Atalanta pareggia 1-1 contro la Sampdoria. La carriera di Lobello nella massima serie durerà 20 anni esatti e segnatamente 328 partite, un record impressionante a cui si aggiungono 93 sfide internazionali. Nel 1974, arbitrando la finale di Coppa UEFA Feyenoord-Tottenham, diventa a 50 anni l'arbitro più anziano a fischiare in una gara delle Coppe Europee. Concetto Lobello. È il momento della parentesi dal Giro d'Italia. Veicoli commerciali Citroën, dedicati a chi pedala tutto il giorno. Vi presenta Voci dal Giro. Ma sicuramente la prima parte e l'ultima parte sono un po' tecniche, oltre al giro di boa che è a Corrubio con lo strappetto di Castelrotto. Poi per quanto riguarda il Lungadige c'è da fare tanta velocità, le squadre, vento permettendo, fileranno a 60 all'ora. Non è sicuramente decisiva, però comincia a dare una linea a questo giro, c'è chi perde, chi comincia a perdere qualche secondo, magari avvicina anche al minuto, qualcuno che ha qualche minuto tra i leader di classifica ci sarà. Era la voce di Elia Viviani della Liquigas che ci ha presentato il percorso di questa cronosquadra in programma oggi per la quarta tappa, la prima in territorio italiano. Adesso arriva la domanda del giorno per vincere il polsino di Radio 24 che Ivan Basso sta indossando al Giro d'Italia. Se lo aggiudica il primo che risponde correttamente via SMS e quindi al numero 349-238-6666, alla seguente domanda che è ambientata un po' con la tappa di oggi, cioè la cronosquadra. Quante sono le squadre che prendono parte a questo 95esimo Giro d'Italia? Risposta da dare entro la fine di questa puntata. Vi ricordo infine che per vincere la tappa sulla Miraglia del 20 maggio non dovete far altro che inviare entro il 15 di maggio un vostro ricordo del giro in 10 righe ad atemporisport@radio24.it o nella sezione dedicata al giro sul sito www.radio24.it. Il più bel racconto tra quelli letti in diretta vincerà questo premio. Domani vi darò un campione di lettura, perché nel frattempo abbiamo cominciato a ricevere i primi. Un campione di lettura, lo anticipo, firmato Gianluca, che ci ha scritto da Parma. A risigla. Voci dal Giro. Torniamo in compagnia di Marco Bellinazzo per il finale. Eravamo a esempi virtuosi e a esempi assai meno virtuosi. Da che parte ribattiamo? Beh, qui possiamo parlare, diciamo, di esempi che stanno in territorio negativo per quanto riguarda l'utile, ma che diciamo, possono considerarsi in qualche modo positivi per quanto riguarda quel rapporto tra fatturato e salari. Il Bologna ha un fatturato di 60 milioni circa e salari per 30, anche se è chiuso a meno 4. Il Chievo ha un fatturato di 41 milioni con salari che sono di circa 18 e una perdita di circa 200 mila euro nell'ultimo bilancio, poca cosa rispetto alle altre realtà. E il Cagliari ancora ha un bilancio intorno ai 47 milioni con salari di circa 21, un bilancio chiuso ultimo con meno 2 milioni, ma come vedi, Gigi, quando si riesce a stare intorno a quel 50% nel rapporto tra fatturato e salari, bene o male, insomma, funziona. O si guadagna o si perde poco. Certo, quando si riesce ad andare abbastanza significativamente, non dico nettamente, al di sotto, i bilanci sono automaticamente in positivo, sono in nero e non in rosso, e più ti avvicini al 50 più sei a rischio, quando passi il 50 non hai margine. È quasi una formula matematica, direi. Certo. Magari le società, che sia con il fair play finanziario, che sia con un possibile salary cap, insomma con tutte le difficoltà di applicarlo in Italia, dovrebbero però tener conto che questa è la regola aurea a cui attenersi per crescere in maniera sana. Puoi far crescere gli ingaggi solo se cresce il fatturato. Infatti è molto molto molto interessante, ci sono ascoltatori, poi se qualcuno vuole ancora intervenire in diretta, forse il tempo per un intervento ancora c'è. Ce ne sono molti che stanno facendo domande su altre società di cui abbiamo parlato le scorse settimane, per esempio due o tre inviti anche pressanti a ricordare il modello udinese. L'abbiamo trattato, ma visto che siete in tre o quattro, vabbè, accontentali. Beh, l'Udinese ha chiuso l'ultimo bilancio con 3 milioni in attivo, ma l'ultimo bilancio non tiene conto delle operazioni dell'ultimo calciomercato, cioè quelle relative alle cessioni di Sanchez e Zapata, che sicuramente faranno crescere, faranno bene ai conti. È un modello molto virtuoso, in cui c'è una spesa che supera i 10 milioni di euro per quanto riguarda lo scouting, cioè la ricerca di nuovi giocatori, il loro acquisto e poi evidentemente la formazione sul campo. Ma è un modello virtuoso perché permette a una squadra che ha un fatturato comunque contenuto e con le plusvalenze viaggia verso i 100 milioni, ma senza sarebbe intorno ai 50-60, di mantenersi tendenzialmente inattivo nei bilanci, di ottenere grandi risultati sul piano sportivo e di avere però sempre giovani da valorizzare e da poter piazzare, poi, anche se è una brutta espressione, ma piazzare a livello di calciomercato per ottenere guadagni significativi. Certo. Che permettono di prosperare. Sto scorrendo, ci sono molte risposte esatte sul numero e alcune e molte altrettante invece che esatte non sono. Ultimo ascoltatore di oggi, da Cremona di nuovo, Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, dottore. Volevo un attimino precisare una cosa rispetto a quel tifoso della Cremonese. Tra l'altro anch'io sono tifosissimo della Cremonese, lo sono sempre fin da bambino, vado a vedermi le partite della Cremonese, meno quest'anno dove orgogliosamente non ne ho vista una. Semplicemente precisare il fatto perché non nascondiamoci dietro a un dito, la Cremonese è stata penalizzata giustamente di 6 punti perché comunque nel pieno dell'inchiesta ha venduto due giocatori ad un'altra società. Quindi è inutile che stia qua a girarsi intorno che la Cremonese è stata attaccata. La Cremonese è stata, ha fatto una mossa di mercato che non poteva fare, perché lo sapeva benissimo che il portiere Paoloni non si poteva vendere, invece nel mercato di riparazione l'ha venduto tranquillamente. Andrea, io quando trovo un tifoso che ragiona mi permetto di dire che la Cremonese quest'anno è andata discretamente bene, secondo me, così come sono certo che sia andata abbastanza bene all'Atalanta, perlomeno per i parametri, e chiedo conferma a Marco Bellinazzo per quanto molto sintetica, perlomeno per i parametri che la giustizia sportiva ha sempre applicato in passato. Cioè, ricordo una telefonata a Clerici Garonzi che significò dalla A alla B che rispetto a quello che è emerso quest'anno a carico di Cremonese meno, ma qualcosa, e Atalanta non ne parliamo, quante categorie perdevi? Diciamo che la giustizia sportiva è stata abbastanza clemente, visti i presupposti la scorsa estate. Non so quanto clemente sarà oggi. Ecco, esattamente. Vediamo oggi. Grazie comunque del suo intervento. Grazie a tutti i solutori. Adesso in questo momento non sono in grado di dirvi chi ha vinto. Sono in grado di dirvi soltanto chi è stato il primo. Sono in grado di dirvi soltanto che le squadre sono 22. E poi di ringraziare Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanide in redazione, ovviamente Marco Bellinazzo. Appuntamento a domani, perlomeno da un punto di vista di ascolto, poi vediamo le modalità. Buon pomeriggio a tutti.